24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Per gente che lavora e viene spesso è difficile, perdi una mattinata intera, credo, c'è gente fino dalle 7, almeno ieri. Puntata della sceneggiata napoletana, questa. La sceneggiata degli eccessi. Quindi a questo punto viene da chiedersi chi entrava prima, se venendo spesso in tribunale non trovavo file ed entravo direttamente, adesso che ci sono questi controlli si aspetta nulla, allora prima chi entrava? Chiunque. Scusa, che te c'è da dire? Dopo rubaz metti i porti firca, no, stiamo guaiati proprio. Saranno buoni tre quarti d'ora, sotto sole, figuriamoci se fosse stata una brutta giornata di pioggia. Fortunatamente c'è il sole, quindi cerchiamo di resistere. Scene dal tribunale di Napoli. Sapete che adesso ci sono i controlli dopo quello che è successo a Milano, file lunghe, alla fine anche qualcuno che sfonda il cordone della polizia esasperato dalle file per entrare per i controlli, 5 feriti. E vabbè. Yeah. Siamo un bel paese, eh. Siamo un bel paese. O zero controlli oppure file chilometriche, risse, vetri sfondati. E a lei. Sono le 6:33 minuti, cari ascoltatori, questo è 24 mattino, c'è Lorenzo Nespoli che fa i suoi soliti 15 chilometri durante la trasmissione per correre avanti e dietro dallo studio, c'è il nostro Peter Bescapè in regia. Voglio subito salutare anche Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Luca, buongiorno. Buongiorno. Ciao, come sai oggi, devo dirlo agli ascoltatori, l'ho già detto ieri, siamo orfani per una settimana. Perché la mamma, sapete che da 2 anni il mercoledì la nostra Paola Saluzzi ci allieta con la sua presenza. A lei, come ieri, mando un grande abbraccio. E lei sa, caro Luca, che questa casa aspetta te, come mi dice sempre. E quindi torna presto, vedrai. E oggi, caro Luca, ci accontentiamo di Vincino. Che deve Vincino, buongiorno. Sostituto, ecco. Ecco, buongiorno. Sostituto. Ciao Vincino. Ciao direttore. Guarda, subito appena sento un direttore si mette sull'attenti, porca miseria. No, ma è uno dei miei direttori preferiti. Ovvio. Assolutamente. È veramente incredibile, Vincino, è veramente incredibile. Come stai, Vincino? Tutto bene? Eccoci qua, benissimo, assolutamente bene. E come vedi, stamattina ho messo la prima sul foglio un ponte meraviglioso che in Sicilia resiste dal 1100. Ponte Ammiraglio, il ponte Ammiraglio dove pure ci fu una battaglia, Garibaldi... E resiste dal 1100? Dal 1100, fatto dall'ammiraglio non mi ricordo come, tecnologia araba-normanna che è la migliore praticamente. Ecco. No, è là, bisogna dirlo, peraltro è un monumento che io amo moltissimo. più. Ogni volta che torno a Premo vado a farmi una passeggiata sul ponte Ammiraglio. Ecco, da 1131 anno di costruzione, un ponte arabo normanno. No, impariamo dagli arabi. Oh. Ma ci fu pure una battaglia, resistette alla Garibaldi con i Borboni, città, bombe, pam pam pam, niente, tranquillo, lui in piedi perfetto. E invece basta passare su un viadotto siciliano con, non so, una Fiat Duna. Faremo, che si va a fare a Catania, poi diciamocelo tra di noi, no? O anche da Catania che si va a fare a Palermo, insomma non è... Vabbè, caro Luca Dini, Vincino è così, sai... Beh, giusto, però, è giusto. Altre grandi opere. Esatto, esatto. Allora, apriamo subito il Parlamento, dai, apriamo il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Allora, però, prima di ponti che crollano e ponti che resistono, io vorrei parlare, io sono... sono sconvolto. Ma l'avete vista questa di questo poliziotto che è entrato che ieri, dopo non so quanti anni, dal G8 e dopo tre giorni dalla sentenza, che qualche giorno che ci ha detto in pratica che al G8 alla scuola Diaz fu tortura, una pagina veramente infame della storia italiana, bisogna dirla, infame della storia italiana. Questo poliziotto ha detto: ci entrerei mille volte la Diaz. E poi, caro Luca Dini, poi dopo c'è, è intervenuta anche la Zanzara, adesso magari te lo facciamo sentire, e poi a dire: no, ma io volevo dire che... ma volevi dire che cosa? Cosa volevi dire? Non so, direttore, cosa voleva dire secondo te? Poteva dire quello che ha detto. A me, quello che mi ha sconvolto, c'era quasi una nostalgia in quelle parole. Sì, sì, lo spirito cameratesco, mamma mia. A me sembra quasi che gli mancasse, insomma, non voglio dire l'odore del sangue, però il combattimento. Usava fra l'altro delle parole, la valoria, cioè, mi sembrava una cosa un po'... un po' anacronistica. Sì, sì, vagamente anacronistica. Sì, però insomma, a volte diciamo che nella spontaneità delle manifestazioni viene fuori la verità, poi dopo uno dice: volevo dire altro, invece voleva dire altro. Certo, voleva dire altro. Volevo dire che noi siamo entrati, ma io non ho commesso nessuna violenza. Ma voglio dire, ma Vincino, te lo faccio sentire. Ieri Cruciani l'ha chiamato, come si chiama? Fabio Tortosa, senti. Entrerei mille volte all'interno della scuola Diaz perché la vedo dal punto di vista operativo della tipologia di operazione che siamo stati chiamati a fare, che ribadisco essere stata ineccepibile, ma l'ineccepibilità è stata messa in discussione da una realtà processuale. Io invito tutti ad una riflessione di quanto sia realmente accaduto. Ma cosa? L'ineccepibilità dell'operazione è stata messa in discussione da una realtà processuale? Ma come parla intanto? Come un avvocato? Ma Vincino, dimmi tu qualcosa. Ma questo era da tanti anni che se lo teneva dentro, no? Perché si è divertito moltissimo, da lui e i suoi colleghi. Ah, quella notte si sono sfogati. Il problema è questo, che noi abbiamo una polizia vecchia. Una polizia vecchia, vecchissima, cioè, se tu li vedi in faccia, polizia e carabinieri, sono tutta gente di 50-60 anni. No, non è vero, dai. Ma sicuro, no. La maggioranza, sì, sono la maggioranza. Io devo guardare. Ti quelli dico, operativi non è vero, dai. L'anno scorso, due anni fa, quando venne Obama, no, che avevo di fronte a casa mia cordoni di carabinieri, tu erano tutti sopra i 50 anni. Sì, vabbè, ma quelli che fanno i cordoni, ma invece, invece purtroppo, quelli che, come in questo caso, sono giovani, anzi. Lui non è giovane, sono pochissimi giovani, c'è stato pochissimi. un ricambio piccolo. Vabbè, ma al di là di questa considerazione anagrafica, no, cioè, sono di testa anagraficamente, loro sono ancora figli di Scelba, là gli piaceva manganellare, andare, picchiare, è il loro godimento, la loro gioia. Vabbè, poi adesso come al solito diciamo, oggi giustamente lo scrive Gramellini, prima pagina della stampa, c'è un corpo, Gramellini è sempre là quello che Ma no, perché vabbè, scrive di Fazio Gramellini. Ma là, cosa c'entra quello di Fazio? Scrive una cosa giusta, dice: è un corpo la polizia, e se c'è qualche parte del corpo malata va tolta. Sì, metà, tre quarti, dalla testa, da Angelino Alfano a tutti i dirigenti subito sotto. Ma cosa c'entra Alfano? Sì, bisogna fare mandarne via metà e rimetterne altri. Ecco, caro Luca, hai visto qua io con Vincino. Come, che fatiche ogni giorno. Ma poi... no, perché con la legge del coso non abbiamo ricambiato naturalmente. Ma la legge del coso chi? La legge è quella, sì, quella che praticamente bloccava le nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. Vabbè, abbiamo una polizia vecchia. Comunque, insomma, direttore, qua che dobbiamo fare? Cioè, adesso addirittura Vincino dice tre quarti della polizia è malata. Adesso non... cioè, salutiamo tutti i poliziotti. Un quarto, anche un decimo, ci sono troppi poliziotti a cui questa cosa fa male, e tra l'altro ce ne sono tantissimi che parlano poco ma non sono per niente d'accordo, e che l'hanno anche detto da questa parte, quindi è offensivo, soprattutto è inopportuno, non so come dire. Cioè, ma sì, ma poi arriva, è vero che c'è stata la sentenza settimana scorsa, ma così tanti anni di distanza... addirittura. Secondo me l'ha scritto addirittura un po' prima. Sì. Ma voglio dire, allora, io ieri l'ho detto in un impeto di rabbia, ma lo confermo a mente fredda: secondo me uno così non deve vestire più la divisa. Poi sicuramente, secondo me, poi io non conto niente, non prenderò nessun tipo ma di. Ma guarda, che se ci fosse un sistema per cui uno che parla così non l'avesse più, sarebbe stato zitto. Appunto, e forse ma ci sarebbero meno. Come se ci avessimo altri sistemi, diciamo. Più che la fila, che vabbè è una cosa brutta, ci sarebbero stati gli spostamenti a Napoli. Ah sì, certo, la fila, la fila a Napoli. Tolleranza. E intanto i ponti resistono. Però, scusami, sì. La fila è colpa loro. Cioè, colpa loro in che senso? Nel senso, chi è che ha il potere di mettere la vigilanza? I capi della procura di Napoli. Sono loro che dicono mettiamo 7 tondelli, ne mettiamo 2, prendiamo quell'agenzia, facciamo fare l'ordine dei carabinieri o a quell'agenzia di vigilanza o a quell'altra. No? Come dire? Se sono incapaci di organizzarsi, come dire? Eccoli, abbiamo sistemato. Quindi abbiamo sistemato i catanesi oggi, per il momento, con Vincino, i napoletani, i poliziotti. Anche al contrario, e anche da Catania a Palermo non ci vengono a fare niente. Non è che. Ma tu allora diciamo la verità, Vincino, tu ami un po' Catania? Io amo follemente la Sicilia, no? Sì, vabbè, poi amo Palermo in una maniera proprio io. Vabbè, sono... questo si sa. Catania mi fa anche simpatia, non è che in Italia, però un po' inguaiata, peggio di Palermo, però va bene. Vabbè, ti fa simpatia, è il massimo dell'afflato che puoi dare. No, ma amo tutta la Sicilia, non oramai, non cioè, poi ce l'ho pure i messinesi, là, che è un altro disastro. Vabbè, ecco pure Messi, abbiamo sentito i messinesi, vabbè, capito? È un tipo. È un tipo. Allora, oggi la politica racconta che per la 5487esima volta c'è una resa dei conti all'interno del PD sulla legge elettorale. E Renzi basta, sbotta, non se ne può più. Basta, non siamo al Monopoli. Sentite Matteo Renzi. Noi abbiamo detto basta, si decide, finalmente si fanno le cose, perché poi a un certo punto bisognerà pur decidere, anziché continuare come a Monopoli che prendi, tornate al vicolo corto, senza passare dal via. A queste immagini, Vincino, a queste immagini. Un grande comunicatore, bisogna dire. Per comunicare comunica, e il problema è che non è un grande attuatore ogni tanto. No? Che accuse pesanti! È come le province, no? Come dire, un disastro. In mano, non dirlo troppo forte. No, diciamolo, non è che, però là se lui sta attento che quelle sono un cane. Ma tu che hai scritto il libro La Cavalcata, giusto? Sì, era questo. Tra poco dovrebbe ritornare in edicola. La Cavalcata di Matteo Renzi, sì. Lo vedi ancora cavalcante così? E come dire, lo trovo un poco appannato per alcune cose, cioè c'ha troppi imbecilli intorno a sé, bisogna dire. Non ti chiedo chi. Non ne parliamo, no, però dai, un paio anche potresti dirci. Siciliani, anche siciliani, vabbè. per cui questi cioè, sono tutti renziani e lui non capisce più di chi si può fidare, di chi no, difatti c'è. Cioè, questo Del Rio gli dava un po' fastidio e lo manda là, e là che cosa fa? Rovina tutto. Ma come rovina tutto? Ma chi sono secondo te i più imbecilli? Fassati a Vincino? facciamo satira. Sì, noi chi sono secondo te i più, i più... No, ho capito. Chi sono? Tutti quelli del CCD intorno, quelli sono terribili. Chi è il CCD? Come cavolo si chiamano quelli là? No, quello il capo della polizia, Alfano, quello è un disastro immane e totale, proprio ecco, è il suo grande, è il suo grande amico. Ma no, vi parliamo invece di quelli interni, quelli là, i suoi. Ma cioè, Migliore, no? Migliore che era il più grande oppositore di sé, ora è il suo più grande fan. Ma dai, ma lei cioè, non puoi tenerti uno così, no? Non puoi tenerti come portavoce. Vorrei un'analisi un po' più. È peggio di quelli là, come si chiamano? Quei due o tre che passarono con Berlusconi. Scinipoti. Esattamente, Migliore è uguale, preciso. Uguale a Scinipoti, mamma mia. Lui era il. Migliore come Scinipoti, adesso te lo scriviamo su Twitter, così Migliore sarà contento. Vabbè, ma vorrei sapere da Luca. Ora è il profeta di lui, dai, irrefrenabile, massacrò la legge elettorale quando era di sé. Fermati. Direttore, che dobbiamo fare? Dobbiamo dare una manganellata anche a Vincino, che così si parla. Però Luca, tu che osservi sempre la politica con questo distacco, come anche una certa passione, no? Questo dibattito sulla legge elettorale giunto alla puntata numero ha ragione. Che succederà? Qualcosa almeno succede. No, qualcosa succederà, sì. Devo dire, Cino non ha per niente torto sul fatto che quando uno è al potere a volte non capisce più di chi si deve fidare. Sicuramente io continuo a pensare che Renzi sia migliore di quello che riesce a fare e anche di molte persone che ha intorno, però credo che alla fine, insomma, io sono convinto, cioè mi sembra che è troppo ostinato per fermarsi, non credo si fermerà. Non tornerà al vicolo corto, insomma. No. 24 mattino. Buonasera signor Milan, io amministratore delegato della Matera. Noi della Mattel volevamo dare in omaggio i mattoncini della Lego, perché abbiamo visto che ultimamente le vostre costruzioni vengono giù. Allora noi mandare tanti piccoli mattoncini della Lego per fare costruzioni dei vostri ponti, anche perché sicuramente reggeranno più dei vostri fatti con cemento disarmato, no armato, cemento vostro è disarmato. Ale, sei sempre un mito, ciao! Forza Paola, giornalisticamente ti amo. Caro Milan, finalmente sei tornato, ma sti politici non se possono, non se ne vuole più di sti politici. La zappa non basta più, la gallienna, ci vuole la gallienna. Ma non li dovevamo mandare con l'upinoscafo, no, li dovevamo mandare con una galea veneziana a remi. E Giannino ingazzato che gli batte la coca. Giannino gli batte la voga e con un biglietto che sono andata senza ritorno. Solo così ci salviamo. Ciao. Grande, il nostro contadino di Terni è tornato. Tutti i politici sulla caro Luca sulla galea veneziana con Giannino. Che immagine, neanche tu Vincino potresti immaginare una cosa del genere, con Giannino che batte la cosa. Ti prego, disegnacela, ti offriamo anche tre caffè per una il problema è fa tutti i pali, perché sono centro rematori, però, facciamo, non è male l'idea dell'amministratore delegato della Mattel, che ci manda i mattoncini Lego. Vabbè, un accento bellissimo. Sì, esatto. Vincino, potremmo farlo così il ponte. Io ieri mi sentivo male ieri sera a vedere Lupi in televisione. Lupi che si era sopportato, Sciucci che ci è voluto il report per mandarlo via. Sì. No? Perché in Italia se non c'è il report che manda via qualcuno, il Gabibbo è il report, cioè tu ti sopportavi uno che si metteva, aveva una televisione interna all'ANAS con un direttore, tu lo sapevi che direttore, che aveva 300.000 euro all'anno di stipendio per fare una televisione che non serviva a niente, e poi lo mandava a fare i collaudi. Sì. Fa di loro, cioè, Arino, vai a fare tu il collaudo e ti becchi 200.000 euro, stacchi, no? E manco ci vai, lo fa per telefono, no? Tanto anche per telefono puoi dare indicazioni. Ma siamo, come dire, è tutto segnato di pazzie. Se lo sopportava quello là, quel lupin là, là che sta in televisione, sì, tranquillo, come se lui non c'entrasse un cazzo. Ti ha infastidito. Cioè, comunque, sappi, sappiate, il posto suo, mi vergognerei. Non sappiate tutti che ci costerà 30 milioni rifare quel viadotto lì in Sicilia. 30 milioni. Di euro, 30 milioni di euro. No, ma quella è tutta un'autostrada che proprio faceva proprio schifo da sì, sempre. Ma poi come dice Vincino, ma che fate? Statevene a Catania, città simpatica, statevene a Catania. Vabbè, io qua ho il numero di Vanity Fair. Allora, caro Luca Dini, devo concludere e beh, Margherita Bui, l'hai fatta apposta per il film, no? Di Nanni Moretti, ma l'hai visto in anteprima, è bello? Non ho ancora visto, i miei colleghi che l'hanno visto, sì, è molto bello. Margherita Bui, duro, diciamo, ma che come sempre con Moretti, insomma, piacerà, dividerà, però non lascerà indifferenti. Che bella donna, mamma mia, Margherita Bui. Vabbè, ma cosa scrive invece di Valentino Rossi? C'è tutta una storia su Valentino Rossi. Ah, scritta da un tale Gabriele. Un bellissimo pezzo di Gabriele Romagnoli sulla... È molto bello, devo dire, sul fatto che la cosa più difficile non è vincere, ma è tornare a vincere. Gabriele Romagnoli, conosciamo. il marito della nostra Paola, torna! Paola, torna! Noi ti aspettiamo, così come aspettiamo... Beh, Luca Dini, ricordo Vanity Fair, lo trovate in edicola ovviamente da oggi l'ultimo numero. Ti riaspettiamo anche a te, Vincino, quando vuoi, mi raccomando. Beppe Grillo, invece, Beppe Grillo non ha detto niente. E che ne so, all'ultimo là così, quella cioè aveva avuto un'idea buona, quella della marcia, però le marce durano, non è che la marcia per il sale di Gandhi durò, non so, 3 mesi, cioè non è che fa marcia e mezza giornata lì, che fa? Una persona del cavolo, un imbecille, eccola, figurarsi. Grazie Vincino, un abbraccio, alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di immigrazione, avremo ospite il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, così come il sindaco di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci, che ha detto noi non daremo più assistenza, come fanno molte regioni, o promettono di fare molte regioni, che sono allo scontro col governo centrale per questa emergenza continua sull'immigrazione. Avremo ospite anche l'armatore della nave, il rimorchiatore Asso 21, che ieri è stato assaltato, l'altro ieri per la verità, dopo aver trasbordato dei migranti, è stato assaltato in un episodio ancora ben da chiarire da alcuni scafisti a colpi di Kalashnikov per riprendersi il barcone usato per fare la traversata del Mar Mediterraneo. Sarà ai nostri microfoni l'armatore del rimorchiatore Asso 21. Ora andiamo però con ordine e procediamo con la lettura dei giornali. È mercoledì 15 aprile, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, via al 7:30 precompilato, ecco la guida pratica presentata oggi dal Sole. Mentre i migranti sono il primo titolo per il Corriere della Sera, scontro politico sui migranti, la Lega, stop all'accoglienza. La Stampa, immigrati, regioni in rivolta, non ne accoglieremo più. E sul canale di Sicilia i libici sparano alle navi italiane. Ecco che Libero, infatti, titola in maniera un po' ansiogena, ci sparano e ci invadono, titolo di prima pagina. Il Manifesto invece mette Salvini e il titolo di prima pagina è Lo squalo, le speculazioni politiche, dice il Manifesto sulla vicenda dei migranti. Repubblica invece, la legge elettorale, la 102esima settimana decisiva. Italicum, la trincea dei ribelli PD, Renzi dice basta giochi. Vabbè, questi sono alcuni titoli, voglio subito però andare a leggere alcune notizie, perché ce ne sono tante, a partire da quello che è successo col G8, il G8 di anni fa, con il poliziotto Fabio Tortosa, colui che entrò, uno di quelli che entrarono nella Diaz e che ora si è sentito in dovere, a distanza di anni e distanza di qualche giorno, di una condanna, di una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia, dicendo c'è stata tortura, a dire, a scrivere su Facebook: io sono uno del settimo nucleo, ero quella notte alla Diaz, ci rientrerei mille e mille volte. Bravo, bravo, complimenti. Ovviamente poi con una serie di interviste è intervenuta anche la Zanzara, da Giuseppe Cruciani, a dire sono stato equivocato, voglio dire che noi siamo entrati, ma io e quelli che ho visto io non hanno fatto nulla di quello che i processi dicono. Il poliziotto della Diaz, ci rientrerei mille volte. Potete immaginare le polemiche. Io ho detto, parere mio personale, che una persona così non dovrebbe più indossare la divisa per sempre. Questa è la mia opinione personale. Anche al secolo XIX Fabio Tortosa parla: la mia frase è stata manipolata, ci tornerei in quella scuola perché non ho commesso nulla di illegale, le mie parole sono state assolutamente manipolate, sono 15 anni che lo urliamo, nulla di illegale abbiamo fatto, l'abbiamo urlato nelle aule, l'ha detto il nostro comandante Canterini, lo dicono alcuni fermati di essere stati picchiati da gente in borghese con i fratini della polizia. L'ultima domanda però del secolo XIX è questo: lei gioca a football e c'è chi dice che alla fine delle vostre partite gridiate tutti Sieg Heil, cioè il saluto nazista. È falso, chiedete in giro, così ci vogliono delegittimare Fabio Tortosa. Per la verità però anche il profilo che fa il Messaggero di questo poliziotto a pagina 11 non è uno dei profili migliori, eh? Alessia Marani: Fabio, il celerino di Ostia tra saluti romani e un passato da ultra. Il celerino ultra dell'Ostia Mare. Quando Fabio Tortosa aveva poco più che 20 anni e prestava servizio in polizia nel nord Italia, appena tornava ad Ostia, subito andava al campo a tifare bianco-viola con quelli del club 1989. Sciarpa sul volto, striscioni, cori, qualche scintilla sugli spalti, come spesso avviene nelle serie minori, evitata per un soffio. Poi la domenica in servizio negli stadi veri, quelli del calcio con la A maiuscola. Appassionato appunto di football americano, diventerà dirigente della Federazione Italiana, vicepresidente della squadra di football americano Lazio Marines. Tra le cose che ama su Facebook, prima di rimuovere ieri al volo la sua pagina, cita lo Sky Italiano e il libro di Luca Telese Cuori Neri, che ripercorre le vicende delle 21 vittime fasciste degli anni di piombo. Questo è un po' il profilo di Fabio Tortosa. C'è anche un'intervista sul Fatto Quotidiano a Claudio Santamaria, attore che ha interpretato sul grande schermo nel film di Daniele Vicari sulla Diaz un poliziotto buono, ispirato alla figura del vicequestore Fournier. Questa è la polizia che non voglio, dice Claudio Santamaria, la polizia che fa paura. Bisogna lanciare un appello, quest'uomo deve essere sospeso finché non chiede scusa, non può essere in servizio e proteggere le persone, deve andare da uno psicologo. Beh, ma lui si è difeso dicendo nell'irruzione noi abbiamo rispettato le norme e le leggi, ma non dicesse stronzate. La prassi è chiedere documenti, chi sei, che stai facendo qui, lì ci furono manganellate, violenza gratuita, entrarono a spaccare crani. Quale prassi? Poi ovviamente ci sarebbe un altro discorso: in quei giorni di adrenalina, sangue bollente, frustrazione degli agenti, evidentemente sono stati decisivi gli ordini arrivati dall'alto. Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di entrare in una scuola e massacrare chi c'era dentro. C'è una regia e una responsabilità politica. Così l'attore Claudio Santamaria sul Fatto Quotidiano. Comunque, 2001, 2015, siamo ancora qui a parlarne di quella pagina infausta, certamente. È passato meno tempo, ma si parla ancora di un tema che affronteremo tra poco, quello dei vitalizi ai condannati. Non è una mia fissazione, non è una mia fissazione, ma se ne parla tutti i giorni perché tra poco ci sono novità. Intanto però sulla stampa si apprende ancora che c'è stato un nuovo caso di una scuola che è andata a pezzi, o meglio una parte di una scuola, ieri Olbia, come racconta Nicola Pinna, pagina 8, si stacca un lampadario e crolla su un banco di una scuola elementare a Olbia. Fortunatamente il bambino che era in quel banco è uscito prima dall'ora di scuola, lo scuolabus era già arrivato, era arrivato in anticipo e quel bambino non sedeva più su quel banco, non sedeva più sulla sedia e non era più su quel banco. Altrimenti il lampadario, la plafoniera che è franata sbriciolandosi sul banco, probabilmente lo avrebbe colpito in pieno. Si stacca un lampadario, ancora paura a scuola, così sulla stampa, pagina 8, l'ultimo caso a Olbia. A Olbia, eccolo qua la questione dei vitalizi. Allora, sapete che si discute alla Camera con 8 pareri di costituzionalisti se sospendere o meno i vitalizi agli ex deputati condannati. Una cosa che in Sicilia, lo ribadiamo più volte, hanno fatto in 448 per Salvatore Cuffaro, l'hanno fatto in 3 secondi applicando la legge e senza chiedere pareri a giuristi. Oggi c'è un immenso Gustavo Zagrebelsky che dedica una pagina a questo tema, pagina 9 di Repubblica, vitalizia ai condannati se la politica cerca l'alibi dei giuristi per non dover decidere. Questo è decisamente l'articolo che ci fa tenere le mani strettissime sul volante, o se avete, come al solito, tazzine di caffè bollente, appoggiatele. Gustavo Zagrebelsky, un caso da non prendere sotto gamba. Le Camere si trovano a discutere se sia ragionevole che i parlamentari decaduti in conseguenza di condanne irrevocabili per reati di particolare gravità possano continuare a percepire il vitalizio. Se dunque sia ragionevole sostenere vita natural durante coloro che dal Parlamento siano stati allontanati per una ragione di indegnità. E scrive Zagrebelsky, sono stati chiamati in causa, per dire la loro, i costituzionalisti e i loro pareri pro veritate. Ciò che sembrava chiaro è diventato oscuro. Il senso comune pensa che per risolvere una questione controversa ci si possa rivolgere al diritto per ricavare la risposta che mette tutti d'accordo. Qui succede il contrario. La questione sembrava chiara e ci si è rivolti al diritto per renderla confusa. I giuristi hanno espresso le loro verità e hanno sostenuto di tutto, che quei vitalizi sono intoccabili e vanno bene come sono, che devono e possono essere eliminati invece tout court, che li si deve sospendere solo per un certo numero di anni, che li si può mantenere ma se ne deve ridurre l'entità, che infine in ogni caso non sarebbe sufficiente una delibera parlamentare occorrendo una legge. Come giuristi non facciamo una bella figura e nella brutta figura stiamo trascinando l'oggetto della nostra professione, il diritto e la Costituzione. Se tutto è giuridicamente sostenibile, allora i nostri argomenti sono perfettamente inutili. Se tutto è sostenibile, allora liberi tutti. Non si alimenta così l'idea corrente che i giuristi siano essenzialmente dei consulenti e che il diritto alla fine non sia che un mezzo e spesso un mezzuccio? Poiché chi scrive queste righe è anch'egli giurista e costituzionalista, gli sia lecito ricordare la reazione stizzita di Vittorio Emanuele III al parere pro veritate di un famoso professore che aveva giustificato la legge che equiparava Mussolini al re. I professori di diritto costituzionale, disse il re, trovano sempre argomenti per giustificare le tesi più assurde. È il loro mestiere. E allora Zagrebelsky conclude, riprendiamo da capo, i giuristi di mondo sanno motivare qualsiasi cosa, ma ci sono cose che ci si dovrebbe rifiutare di motivare. Quali? La ragionevolezza è l'ancora di salvezza del diritto, è la direttrice che serve a separare gli argomenti buoni da quelli cattivi. Immenso Zagrebelsky, leggetelo alla Camera, leggetelo al Senato invece di chiedere pareri pro veritate a giuristi, giuristi, giuristi. Lui che è un giurista vi spiega che il buon senso dice che se uno è condannato e cacciato per indegnità, il vitalizio non gli si dà. Trovate il metodo che in Sicilia per Cuffaro l'hanno fatto in 5 secondi. Presidente Boldrini, Presidente Grasso, trovate il metodo. ci vogliono 5 secondi. Fatelo, se no non volete farlo. Parole, parole di che, cazzo? Ma fatemi un piacere, dai, su! Passandomi la insonne dell'informazione. È abbastanza insonne, sono 3 giorni... che sono tornato a svegliarmi alle 5, sembrano 3 mesi. Vabbè, mi chiedono l'articolo di Zagrebelsky, del giurista costituzionalista, lo trovate su Repubblica, pagina 9, parla dei vitalizi agli ex deputati condannati. Allora, noi parleremo di e approfondiremo il tema dell'immigrazione su quello che è successo ieri, o meglio l'altro ieri, anche se continuano poi gli sbarchi, le polemiche politiche. Intanto c'è un naufragio di cui non si hanno per il momento prove, ma c'è il racconto dei superstiti, tutto da verificare. Si parla di un naufragio con almeno 400 morti al largo della Libia, e questo ovviamente andrà verificato. Se fosse così, sarebbe forse la tragedia numericamente maggiore mai verificatasi nello sbarco, nella traversata del Mar Mediterraneo. Certo, c'è poi questo episodio, come racconta Fiorenza Sarzanini, del quale vorremmo approfondire qualche particolare, con l'armatore del rimorchiatore Asso 21, che sarà il nostro ospite alle 8.40, e cioè gli spari, ed è il secondo episodio nel giro di qualche settimana, degli scafisti nei confronti di una nave italiana. È il secondo attacco in poche settimane e tanto basta per comprendere quanto la situazione stia diventando pericolosa. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 11 del Corriere, l'assalto, gli spari, la fuga. Così la nave italiana ha ridato la barca agli scafisti. L'allarme lunedì alle 15.30 al rimorchiatore Asso 21, che sta soccorrendo 250 migranti, viene affiancato da una motovedetta. Il comandante ricostruisce così l'accaduto. Durante l'operazione di trasbordo dei migranti si avvicinava un battello veloce con bandiera libica, lungo circa 6 metri, a bordo 4 uomini che indossavano una cerata gialla. Sparavano colpi di fucile in aria, i migranti si sono tuffati intimoriti, sono stati tutti recuperati, 2 uomini saltavano sul barcone, se ne impossessavano e andavano via. È la seconda volta, cioè, che gli scafisti, dopo aver trasbordato, dopo aver fatto questo viaggio in mare, e poi fucile alla mano, si vogliono riprendere il barcone perché evidentemente costa e vogliono riutilizzarlo. E poi ci sono le polemiche in Italia. Salvini, come al solito, è stato il più duro della Lega a dire basta, occuperemo gli hotel. Ieri raccontavamo che il governo ha necessità di trovare subito 6.500 posti nelle varie regioni per accogliere temporaneamente i migranti, e Salvini dice occuperemo tutti gli hotel dove il governo vuole distribuire migranti. C'è da dire che anche le regioni leghiste, per esempio la Lombardia e il Veneto, dicono qua ci sono posti zero. Il Piemonte, racconta la stampa, apre, però non c'è posto. Quindi vabbè, un po' democristiano come metodo, no? Apre ma non c'è posto. Allora tanto vale dire non c'è posto. Sta di fatto che le regioni si arrabbiano per, soprattutto fanno notare molti giornali, le regioni dove si andrà al voto tra poco. Non è certamente un argomento politicamente da campagna elettorale molto facile da gestire. Libero invece continua, e lo fa a puntate, a pubblicare l'elenco dei soldi che vengono distribuiti per gestire i profughi comune per comune. Ci sono comuni che gestiscono soldi e cifre milionarie. Oggi ancora, a pagina 4, potete vedere la pubblicazione dell'elenco delle risorse destinate agli enti locali per finanziare progetti a sostegno dei profughi, che poi vanno utilizzati e vengono spesi proprio per i profughi e non per le sagre delle olive locali. Questo è tutto da vedere. Comunque, questo per quel che riguarda l'immigrazione. Approfondiremo poi il tema dalle 8.15. La politica invece si divide per una questione inedita, nuova, mai sentita prima: la legge elettorale. Ah, c'è una sinistra in fibrillazione, ho detto anche questo, nella settimana decisiva, ecco anche questa, numero 102. Renzi che dice prendere o lasciare, basta, non siamo al Monopoli dove ogni tanto si torna al vicolo corto senza neanche passare dal via. Renzi, secondo Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera, se la legge non passa dovrò salire al Quirinale. Minaccia proprio una sorta di crisi politica. Pagina 2 e 3 di Repubblica, anche Goffredo De Marchis, mentre sto cercando di abbattere il microfono, scusate, Goffredo De Marchis racconta il Premier e le ombre della scissione. Anche qui è la puntata numero 7422 della possibile scissione all'interno del PD, soprattutto per via della legge elettorale. Matteo Renzi soprattutto ha messo nel mirino, politico ovviamente, Roberto Speranza, che è il capogruppo alla Camera, è bersaniano. Avrebbe già messo a disposizione le proprie dimissioni Speranza, perché è a disagio per questa legge elettorale che vuole che venga modificata. Renzi dice nessuna modifica, io vado avanti. E insomma così, ennesimo dibattito, ennesima questione. C'è da dire che la spalla a Renzi la offre anche Giuliano Pisapia, uno che è stato critico spesso di Renzi, ma oggi fa un'intervista sul Corriere della Sera, pagina 5, e dice: Renzi mi è anche simpatico, gli riconosco coraggio e determinazione. Dice Pisapia, che è sindaco di Milano, intervistato da Aldo Cazzullo: stimo profondamente Enrico Letta, ma va riconosciuto che Renzi ha avuto un cambio di passo. Mi è simpatico e se fallisce lui, fallisce il centrosinistra e rischia di non ripartire il paese. Certo, non condivido l'abolizione dell'articolo 18, considero sbagliati i tagli a oltranza agli enti locali, che con le piccole opere possono creare posti di lavoro, ma dice Pisapia, però... mi è simpatico e riconosco a Renzi il cambio di passo. Tra l'altro Pisapia conferma, ovviamente non mi candiderò più a sindaco di Milano, e dice in questa intervista di una pagina a Cazzullo: il mio successore sarà Salvini, lo escludo. Con un leghista alla regione, Berlusconi non può accettare un candidato leghista pure in comune. A proposito di Berlusconi, invece la notizia per lui è che la libertà e il passaporto sono ritornati. È estinta la pena, per la pena 4 anni Mediaset, di cui 3 indultati, 1 passato ai servizi sociali, ma rimane l'incandidabilità per la legge Severino alle cariche pubbliche fino al 2019. Per questo Berlusconi punta che cosa? Alla Corte di Strasburgo per una per diventare anche candidabile, come racconta Liana Milella a pagina 7 di Repubblica. Il ricorso all'Europa, l'ex cavaliere punta sul sì in autunno per tornare innocente e per avere una candidabilità a partire dalle prossime elezioni e quindi tornare pienamente in gioco dal punto di vista politico. Capito Mauro Meazza? Buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno. Hai compilato il 7:30? No, non hai capito, allora non cosa fai oggi alle 10:30? Oggi alle 10:30 non lo so. Non sei più in onda alle 10:30, perché hai il programma fino a una certa ora, ma non sei più. Oh, allora, oggi dalle 10:30 sarà disponibile il 7:30 precompilato. Ah, è precompilato. Cioè è il fisco che te lo compila, non sei tu che lo deve compilare. Vabbè, senti, allora facciamo così, innanzitutto fai vedere la grafica, dai, su 7:30, insomma, fai vedere la grafica di pagina 3 oggi del Sole 24 Ore, che così è tutto molto più chiaro. Eccola. Ecco, così gli ascoltatori possono vedere chiaramente qual è il percorso del 7:30 precompilato. Precompilato che, come abbiamo segnalato già in diverse occasioni, attenzione, va rivisto, bisogna guardare e aggiungere i dati che presumibilmente mancheranno. In quanti casi mancheranno i dati? Ma probabilmente almeno in 3 casi su 4. Ah, bellissimo. Questo sì, perché ci sono proprio dei dati che non sono ancora trasmessi al sistema informatico del fisco e quindi lo saranno, ci auguriamo, nel prossimo futuro. Però ti voglio dire, si prospettano grossi cambiamenti. Oggi è una giornata un po' decisiva, no, per il 7:30 precompilato sicuramente, e si prospettano grossi cambiamenti, anche perché se vai poi nelle pagine di norme e tributi scopri che si sta pensando anche degli incentivi per chi adotta la fattura elettronica anche tra privati. Attualmente è obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma potrebbe arrivare settimana prossima una disposizione in questo senso. E poi importantissimo, c'è una bozza di revisione dei bilanci, della redazione dei bilanci, ne parliamo sempre in norme e tributi, ci sono parecchie novità con alleggerimenti per le più, imprese più piccole, ma anche dei cambiamenti importanti nel codice civile. Adesso non ti voglio tediare, ma altro non ti vuol dire, ma vai a leggere poi i norme e tributi. A proposito, c'è anche questo tra me e Radio Fisco, abbiamo anche il dato sul TFR di marzo, questo tanto per, ecco, basta. Non diciamolo però tantissimo in giro, perché poi è una cosa che sempre vedevo invece sempre sul Sole che il cuneo fiscale, ahimè, secondo i calcoli dell'Ocse è tornato a salire, cioè il peso di tasse e contributi sulle buste paga. Avevi sentito che c'era un alleggerimento? Tu avevi avuto questa impressione? No, non lo so. Non è così, non è così. L'Ocse aveva fatto i conti e ha detto che non è così. Arrivano dei tagli alla sanità, lo sai che ci sono, bisogna trovare 4 miliardi? Sì. Hai messo da parte qualcosa, i tuoi 2 urini? Quello. Ecco, e che quelli tieni a disposizione sempre. E poi ti voglio dire, c'è una, segnaliamo nelle pagine imprese e territori, il calo dei consumi nazionali della pasta, ma anche del prosciutto. Peccato, l'export va bene, ma sul nazionale la pasta è in calo del 3%, di più del 3%, il prosciutto quasi del 9%. Non è, insomma, per certi versi una buona notizia, significa anche che ci sono dei consumi, come dire, più sobri, ecco. Sì. Un ex presidente del Consiglio usava questo termine di sobrietà, allora anche io mi appoggio al termine di sobrietà. Bene. E ciò tutto ciò premesso, caro Alessandro, 10.30 mi raccomando, sì, ci possiamo anche vedere, facciamo insieme, preleviamo il tuo 7.30, così ti aiutiamo a compilarlo. No, naturalmente no, è una cosa, poi rivolgerti ai CAF, ai professionisti, tutto ciò premesso, traffico. No Mauro, non è venuto bene, perché? Un po' più appassionato. È un momento importante oggi, Alessandro. Dillo un po' più appassionato. Vabbè, traffico. No, un po' meno enfasi adesso. Un po' meno enfasi, allora traffico. No, oggi non ti viene, vabbè dai, traffico. Niente. Facciamo traffico. Così, traffico. Che siamo matti. Alessandro Milan. Ma no, forse è meglio Alessandro Juve. Ieri mi chiedeva Andrea Sarubi, chiedeva su Twitter sul rigore, ma non guardo, è andata dentro, è andata fuori area, caro Sarubi, fuori area. Ecco, il rigore. Va bene, comunque, torniamo alle notizie sui giornali con un'altra sentenza invece che fa molto discutere, della Corte Europea dei Diritti Umani, che condanna l'Italia per il caso Bruno Contrada, risarcite Contrada. 83 anni ormai, ex numero 3 del SISDE, già erano stati a dire bisogna dare 10.000 di euro di risarcimento a Bruno Contrada dopo la pronuncia dell'anno scorso per l'ingiusta detenzione del super poliziotto, perché gli ultimi anni avrebbe dovuto trascorrere ai domiciliari per età e malanni. Ieri i giudici di Strasburgo hanno picchiato duro, scrive Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, perché hanno detto che il discusso reato di concorso esterno in associazione mafiosa all'epoca dei fatti e in quel processo non era sufficientemente chiaro. È libero dal 2012 Contrada, arrestato nel 92, condannato nel 2007 a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora Bruno Contrada, 83 anni, si difende in 2 interviste, le potete leggere, una sul Giornale, una su Repubblica. A Repubblica, a Salvo Palazzolo, dice Bruno Contrada: la verità è che stavo per prendere Provenzano e fui fermato, ora voglio la revisione del processo. Mi ha detto questo, mi hanno detto ti vogliono togliere di mezzo gente del mestiere, che sa, la mia vita è stata devastata per 23 anni. Ora lo dice anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo. La giustizia europea è importante, ma ora mi interessa quella italiana. Sì, ricordiamo che in Italia appunto la condanna nei confronti di Contrada è diventata definitiva la condanna. Voglio che la mia sentenza di condanna, dice Contrada, venga annullata con un giudizio di revisione. E poi appunto dice questa sua verità: stavo per prendere Provenzano e fui fermato e fatto fuori, così Bruno Contrada. Vabbè, invece, a proposito di inchieste, sapete che l'inchiesta CPL Concordia Ischia, quella per capirci, è stata tolta dalla procura di Napoli e quindi titola in prima pagina del Corriere della Sera: tolta dalle mani di Woodcock. In realtà non era solo lui che indagava, comunque tolta dalla procura di Napoli, per competenza è stata trasferita alla procura antimafia a Bologna per l'inchiesta sulla Coop, competenti i PM di Bologna. È una sentenza, scrive Fulvio Bufi a pagina 23 del Corriere, che in procura Napoli ha colto tutti di sorpresa. Il Tribunale del Riesame ha disposto il trasferimento della direzione distrettuale alla direzione distrettuale antimafia di Bologna degli atti riguardanti l'inchiesta sulla CPL Concordia. Il provvedimento emesso al termine dell'udienza relativa al ricorso di 2 degli 11 indagati, il responsabile delle relazioni istituzionali della Coop Francesco Simone, il responsabile di area Maurizio Rinaldi, per entrambi il giudice ha respinto le istanze, ma appunto contestualmente ha disposto il trasferimento degli atti a Bologna, e staremo ovviamente a vedere. In un minuto c'è solo da raccontare che cosa? Beh, che Barbara D'Urso, indagata perché non paga gli alimenti all'ex marito, dice: io non gli do più nulla, il mio marito, sì, ex marito, si mantenga da solo, non pagherò gli alimenti all'uomo da cui ho divorziato, lavora, ha una nuova compagna, ha una figlia e quindi non pagherò nulla al Messaggero, si mantenga da solo il mio ex. Beh, ieri la Cassazione, quei giorni scorsi, ha detto che effettivamente deve essere un po' così. Che se anche uno si rifà una vita, sempre, che anche se non si sposa, deve mantenersi da solo, e quindi Barbara D'Urso ha applicato subito quello che la Cassazione dice. Ma siamo al momento conclusivo, quello della carta costa, quello dell'articolo più inutile scovato sui giornali. A mio insindacabile giudizio, oggi stravince una pagina di Libero di Brunella Bolloli, che racconta tutti in fila per il film di Veltroni, ma Renzi da buca. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuori. Milan, il cagnastrandaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, se fossero confermate le testimonianze raccolte dalla ONG Save the Children, si sarebbe verificato al largo della Libia un naufragio di migranti con 400 morti. 400! Sarebbe numericamente la tragedia maggiore mai verificatasi, No, quando parliamo di immigrazione io parto sempre da questo punto, perché comunque la si pensi, non dimentichiamoci di questo, cioè si tratta di esseri umani. Lo dico senza falsi buonismi, per carità, però anche per evitare un approccio estremamente cinico e freddo su un tema così delicato. Comunque, si migra, ci si sposta, a volte purtroppo, come in questi casi, si muore, in altri casi si arriva in Italia, soprattutto come prima destinazione. E anche nei giorni scorsi sbarchi nelle nostre coste, il Ministero dell'Interno dice: bisogna trovare subito 6.500 posti per accogliere temporaneamente queste persone, e molti amministratori locali, regioni leghiste in testa, si arrabbiano. Il più duro, come sempre, Salvini, che certo non ama, eufemismo, il ministro dell'Interno Alfano, e dice di lui così: stamattina Alfano sta cercando 6.500 posti letto per i clandestini. Io pensavo di avere un ministro dell'Interno, non un affittacamere di alberghi a ore. Aggiunge Salvini: occuperemo ogni ostello, albergo, scuola, ogni struttura, insomma, utilizzata per i migranti. Allora, partiamo da qui. Saluto il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, spesso nostro ospite su questo tema. Buongiorno, sottosegretario. Buongiorno a lei, dottor. Allora, che risponde a Salvini? Che atteggiamento è? Ma guardi, ora, a parte la tragedia, appunto, che come lei ha giustamente sottolineato prima, ha assunto proporzioni ben più gravi, ben maggiori di quelle che ipotizzavamo in prima battuta. ma direi che nel ragionamento di Salvini ci sono almeno un paio di falle. Il primo è che non sono clandestini, nel senso che la stragrande maggioranza di quelli che sbarcano, ce lo siamo già detti ma conviene ripeterlo, credo, sono persone destinate alla richiesta di asilo, e molte di queste in percentuali molto alte, calcoli circa il 60%, vicino al 60%, sono anche titolari di quel diritto di asilo, di protezione internazionale, di protezione umanitaria. Quindi il primo, diciamo così, il primo, palla, questo, il primo errore è questo qui. Il secondo errore è che la circolare, ora io per carità non voglio fare giochi a ribasso, ma in realtà la circolare altro non è che la traduzione pratica dell'accordo del 10 luglio del 2014, che è stato rinverdito alla presenza del ministro Alfano proprio dai presidenti di regione, e che implica una corresponsabilizzazione tra Stato centrale e autonomie locali per la distribuzione sul territorio dei migranti, dal momento che siamo convinti che i grandi assembramenti, e d'altra parte anche le inchieste giudiziarie vanno in questa direzione, non vadano bene. Dato che il ragionamento è corretto, i grandi assembramenti non vanno bene. Quindi è solo, diciamo, un discorso che prosegue da luglio. Ma quindi lei come si spiega questo, come dire, cambiamento di atteggiamento, che ci sono le elezioni? Guardi, purtroppo sotto le elezioni sono argomenti che possono essere facilmente strumentalizzati, perché io capisco che alcuni territori possono essere in condizioni di stress, che alcune situazioni probabilmente, non essendo del tutto felici, generino del malcontento nelle popolazioni locali, e quindi politicamente è un argomento facilmente sfruttabile. Però il dato di fondo da cui bisognerebbe partire, mi fa molto piacere che lei sia partito proprio da questo, è che prima di tutto non li etichetterei come clandestini, sono esseri umani, molti dei quali muoiono nelle acque del nostro Mediterraneo. Sottosegretario, lei conferma che questi sono i numeri, cioè 6.500 sono i posti da trovare subito e poi si vedrà? Guardi, i numeri possono anche diventare maggiori, perché tutto dipende ovviamente dal numero. Il piano si rivolge non alle fonti, ai paesi da dove nascono, alle regioni. Ma semplicemente alle persone, alle regioni e alle persone che già sono sbarcate sul nostro territorio. Quindi è evidente, siccome non abbiamo poteri magici né per farli sparire né per operare altre magie, non c'è altra soluzione che quella di un'equa distribuzione sul territorio nazionale. Però allora, sottosegretario, c'è non solo regioni leghiste. Io le voglio presentare un sindaco, il sindaco di Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, Giuseppe Geraci. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, lei ieri ha detto, tra l'altro ci dica com'è la situazione, perché so che sono arrivati, insomma anche lei Stanno per arrivare, mi sto dirigendo al porto in questo momento. Lei ha detto basta navi o mi dimetto, e vabbè qui Geraci, sì, lei è stato senatore, sa che in Italia non si dimette nessuno, non si minacciano mai. Dunque, no, c'è un problema, io comprendo le ragioni naturalmente di un sottosegretario, diciamo che deve per forza salvaguardare quella che è la politica estera di un governo che secondo me deve cambiare rotta comunque da questo punto di vista. Il problema non si pone sul piano di un razzismo così, ecco, sì che ti semplifica. Il problema si pone ormai su una questione di sovraffollamento. Ecco, Ma lei non le vuole più queste navi? Nel senso nel nostro territorio, noi abbiamo già avuto qui a Corigliano due sbarchi. Sì. Abbiamo ancora una carretta che è nel nostro porto. Domani mattina noi avremo una nave della Costa Crociere, quindi un impatto anche, un'immagine negativa, molto negativa. Cioè che vuol dire, scusi, gli immigrati danno fastidio alla Costa Crociere? Ma no, io non dico adesso gli immigrati hanno, però il fatto che noi ogni qualvolta dobbiamo organizzare il servizio per gli sbarchi che si verificano nel nostro porto, ci sottoponiamo a uno stress incredibile. Noi siamo un comune con molti problemi, siamo il comune più grande della provincia di Cosenza, oltre 40.000 abitanti, ma con problemi di carattere finanziario, abbiamo problemi nel nostro territorio. Ma lei cosa farebbe? Cioè, mi faccia capire, cioè, nel senso, lei non vuole più le navi, l'arrivo delle navi a Corigliano Calabro, questo si è capito? Sì, ma io non voglio, non dico che non voglio. toglio le navi, perché, ripeto, ne faccio le questioni di razzismo. Sì, non è razzismo, certo. È questione pratica, pragmatica. Non ci sono soldi, no. Non ci sono fondi. Assolutamente no, però noi anticipiamo somme di denaro che poi ci vengono rimborsate, se ci vengono rimborsate, ci verranno certamente rimborsate con un lasso di tempo abbastanza, diciamo, lasso, quindi non... lungo, e quindi non e poi tutta l'organizzazione che dobbiamo mettere in essere, i nostri servizi sociali. Sì, ho capito, sindaco, mi scusi, lei parla da sindaco di Corigliano, dice: io non le voglio. Dove cosa facciamo? Li facciamo dematerializzare queste persone? Ma dematerializzare, dematerializzare, è chiaro che il governo deve cambiare comunque politica da questo punto di vista, e anche l'Unione Europea deve farsi carico. Sì. Quindi non, però nel frattempo è un problema che riguarda il nord, che riguarda il sud. Qui non si tratta di essere d'accordo con Salvini o meno, qui si tratta che i sindaci chiaramente non possono più sopportare, con tutti i problemi che un sindaco può avere, anche questo, diciamo, anche questo. Però guardi, questo grido di dolore io lo raccolgo, guardi, le faccio rispondere al sottosegretario, nel senso, è legittima anche questo tipo di... Mi scusi, ci siamo fatti carico dei due sbarchi che abbiamo già avuto, abbiamo dato un'accoglienza veramente incommiabile. Però lei ha detto che forse questa volta non lo farete, Allora, un attimo, io ieri poi ho avuto un colloquio col prefetto nostro che devo lodare per le sue grandi doti di umanità, persona molto legata al nostro territorio qui a Corigliano, però abbiamo parlato molto chiaramente, io ho detto al Sua Eccellenza il prefetto che stamattina abbiamo assicurato, stiamo assicurando un'assistenza per accogliere questi immigrati. Però dopo basta. Aspetti, facciamo sottosegretario. Ma è chiaro, sindaco, sì. Però un attimo. Sottosegretario, lei cosa coglie di questo grido di dolore di un amministratore locale che potrebbe essere amministratore di altre città, che dice: va bene, li accogliamo ancora, però basta. Ma guardi, io capisco perfettamente e capisco, il sindaco però dovrebbe capire che verosimilmente le regioni del sud sono quelle più esposte al primo impatto degli sbarchi, per l'ottima ragione che, siccome lo scenario è quello del Mediterraneo del sud, non è possibile pensare di portarli in crociera, diciamo così, i migranti in paesi del nord direttamente. Quindi è evidente che sul primo impatto le regioni del sud, tant'è, dottor Mila, anche se lei vede proprio quella circolare, vedrà che ci sono un numero di posti in distribuzione maggiore nelle regioni del nord piuttosto che nelle regioni del sud. Sì, però certo, da qualche parte devono sbarcare, sbarcano chiaramente nei porti più vicini allo scenario dell'operazione, quindi questo è nei fatti. Io capisco che possa essere disagevole, non c'è dubbio su questo, però questo è il fatto obiettivo, è questo. Dove il sindaco, secondo me, ha ragione, per carità di Dio, è che l'immigrazione è sicuramente un arricchimento anche delle società che ricevono, però oltre certi numeri corrono il rischio di creare destabilizzazione. Questo, per la verità, non sarebbe il compito nostro, questo sarebbe il compito delle diplomazie, cioè sistemare definitivamente la situazione in Libia. Però, siccome esistono anche i paesi di transito, anche questo, dottor Mila, lo ricorderà, che lo siamo certo, già infatti visto. Io allora, volevo chiedere proprio di questo. Rimasti l'ultima volta che lei ci ha detto stiamo facendo dei dialoghi con i paesi sotto la Libia. A che punto è questo dialogo? Ecco, è esattamente quello che stiamo facendo. Abbiamo già avuto un primo placet, una sorta di accordo con il Niger, e mi accingo a recarmi in Sudan, perché sono i due paesi di transito per noi più importanti, perché il primo, quello dove siamo già stati, intercetta la migrazione di carattere economico, e l'altro intercetta la migrazione delle persone che richiedono asilo. in questo secondo stato siamo costretti ad andare dopo il 15, perché come ne sai in questi giorni ci sono le elezioni, sì, quindi dobbiamo andare a parlare purtroppo con un amministratore stabilizzato, quelli sono i tempi diplomatici che non sono certo i tempi dell'emergenza. Però esatto, sottosegretario Manzoni, tornando alla questione iniziale, dovesse davvero Salvini, la Lega, portare avanti quella occupazione addirittura dei posti di ostelli, alberghi eccetera, cosa si potrebbe profilare secondo lei? Ma no, guardi, io credo che questa, non credo che Salvini farà niente di questo genere, nel senso che credo siano solo argomenti spendibili in una campagna elettorale che fortunatamente si avvia al suo epilogo dopo che avremo votato alle regioni. Probabilmente la tematica si inabisserà nuovamente, purtroppo, almeno fino a che non ci sarà un nuovo sbarco o purtroppo una nuova tragedia del mare come quella a cui abbiamo assistito. Stiamo lavorando, però le posso dire, anche su questo versante, perché vorremmo rimodulare il sistema delle gare in maniera tale che non accada quello che è accaduto in piccoli centri, dove effettivamente si capisce che ci possa essere, come dire, un atteggiamento di diffidenza, perché se l'ente gestore che vince la gara si affitta l'albergo esattamente come ha intenzione di fare Salvini nel centro città e pretende di gestire lì la presenza di 70-80 immigrati, è chiaro che questo potrebbe creare delle problematiche di varia natura, quindi stiamo lavorando anche su questo. Per concludere, sindaco Geraci, quanti ne arrivano domani? Oggi, in questo momento io sono qui al porto, arriverà questa petroliera che è stata precettata, quindi che non attraccherà nemmeno, ma sarà a largo, e poi ci sarà un rimorchiatore che porterà qui al... Quante persone arrivano? Sono 110 persone. 110 persone. La volta scorsa ne abbiamo avuto 400, la seconda volta poi altri 350. Ma inizialmente dove vanno? Perché ci ha detto il sottosegretario... Ma poi vengono smistati verso il nord, verso altre regioni. E quindi, poi noi dobbiamo farci carico comunque dei bambini non accompagnati, con problemi sia per le strutture qui da noi a Corigliano, oppure nelle zone... Però sindaco, per concludere, lei dice ora, dopo questa basta, ma se tra cinque giorni ne arriva un'altra, cosa fa lei? A questo punto io non ce la facciamo. Ma sì, ma cosa fa? Cioè, non... Cosa fa? Io ho detto già al prefetto che stamattina noi abbiamo assicurato comunque il servizio, ma con grossi sforzi non ce la facciamo. Con grossi sforzi noi ci distraiamo anche da altri problemi che abbiamo, dobbiamo amministrare, queste sono cose che il governo deve comunque vedere come risolvere al più presto, non ce la facciamo più. Ripeto, le faccio una questione non certamente di razzismo. No, ma questo l'ha già detto le credo ciecamente, su questo non c'è dubbio, è una questione proprio pratica di non farcela. Allora, vi ringrazio, sottosegretario Manzione e sottosegretario all'interno, e Giuseppe Geraci, sindaco di Corigliano Calabro. Ma non abbiamo finito con questo argomento, perché tra poco avremo ospite l'armatore della nave rimorchiatore Asso 21, che è stato assaltato da scafisti a colpi di Kalashnikov, perché volevano riprendersi la barca con cui avevano fatto fare il viaggio ad alcuni migranti. È già il secondo episodio che avviene di questo genere. Allora, oggi Libero titola così: ci invadono e ci sparano addosso, forse un po' in maniera enfatica. Comunque ne parleremo tra poco. Parliamo del tema immigrazione, va bene, raccolgo anche quello che mi dice Milan, prendili tutti a casa tua gli immigrati. Beh, atteggiamento veramente come sempre costruttivo e poco e vagamente demagogico. Bene, brevi ascoltatori, bravi, andiamo avanti così. Allora, intanto però, che cosa è successo? Dopo aver avuto il sottosegretario all'interno Manzione, il sindaco di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci, che dice non ce la facciamo più a gestire questa situazione, io voglio salutare un ospite che ci può raccontare qualcosa, comprensibilmente capisco non tutto, perché la situazione è molto delicata, ma è successo che a largo delle coste italiane, tra l'Italia e la Libia, lunedì il rimorchiatore Asso 21, mentre soccorreva un barcone di migranti, si è vista arrivare una piccola imbarcazione con anche qualcuno che ha sparato per riprendersi il barcone. Voglio salutare il presidente della Augusta Offshore, cioè la società, l'armatore del rimorchiatore Asso 21, Mario Mattioli. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno Mattioli. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, e chiaramente anche oggi il Corriere torna su questa vicenda. Non è la prima volta di spari in mare. Che cosa ci può raccontare di quello che è successo al comandante e all'equipaggio della sua nave? Ma guardi, io ci tengo a fare una precisazione. In realtà noi non abbiamo avuto nessun tipo di danno, diciamo così, da questo intervento. La nostra società opera da molti anni come collegamento tra le piattaforme petrolifere e noi ci occupiamo di offshore, quindi noi colleghiamo le piattaforme petrolifere alla costa e siamo in assistenza sotto le piattaforme petrolifere di estrazione in mare per qualunque evenienza capiti. Noi ci troviamo su una rotta molto, molto battuta, per cui siamo, diciamo, molto chiamati a queste operazioni SAR, che per noi sono diventate una routine, per cui il nostro rimorchiatore Asso 21 è stato chiamato a fare questa operazione, sui migranti. È una delle tante, ma questo sì, però sì, è successa questa cosa. Questa cosa un poco diversa dal solito, nel senso che normalmente quando lei si trova a fare una operazione di salvataggio nei confronti di un barcone di migranti, chiaramente poi il barcone viene in qualche maniera levato dal mare, cioè viene o caricato in coperto oppure viene. E invece in questo caso si è presentata. In questo caso a un certo punto è arrivato questo barchino, Fast Rescue Boat, mi dice dal bordo, quindi uno di quei barchini, poi l'abbiamo visto pure in fotografia, foto. Sono quei piccolini con una certa velocità, il motore eccetera, e di conseguenza hanno di fatto recuperato il barcone, quindi probabilmente. Le chiedo questo, ma hanno sparato non nei confronti della nave, ma hanno sparato? Assolutamente, no, non hanno sparato né nei confronti della nave né nei confronti dei migranti, hanno utilizzato, diciamo, questa minaccia di sparare in aria per velocizzare l'operazione di sbarco, in realtà, per cui è come se avessero voluto dire ai migranti fate presto. Poi sì, che ci vogliamo riprendere il barcone. Esatto. Però lei capisce, Mattioli, che insomma la situazione è un aggravamento, perché sa, gli scafisti già dovrebbero essere catturati se ce la si fa. Adesso che si riprendano anche i barconi, perché i barconi costano, voglio dire. Io credo che non lo facciano perché i barconi costano, probabilmente lo fanno perché i barconi servono, perché in realtà quei barconi non costano nulla, sono dei vecchi pescherecci che vengono probabilmente, da quello che ho letto un po' sui giornali, dall'Egitto, cioè, quindi non hanno un valore intrinseco particolare. Ovviamente quello che è diciamo terribilmente di valore è il carico che hanno a bordo, perché purtroppo questi migranti che sono a bordo pagano, da quelle che sono, diciamo, le notizie che appaiono anche sulla stampa eccetera, voglio dire, nell'ordine di migliaia di euro, 4-5 mila euro, sì. Immagini, quindi 250 migranti, quanti ne abbiamo presi, quel barcone vale 1 milione di euro, ma non perché le valga il barcone. No, è chiaro, è purtroppo un calcolo delle persone. E ovviamente la cosa che ci preoccupa non poco è che naturalmente con il riutilizzo, la ripresa di queste barche, di questi barconi, significa che evidentemente quei flussi migratori con cui siamo stati tutti quanti allertati da tempo eccetera, probabilmente sono veri, sono cioè quella moltitudine di persone è pronta a partire. Però Mattioli, ovviamente da parte vostra, cioè dell'equipaggio a bordo, non c'era la possibilità di reagire, come dire, di dire no. Guardi, noi allora, faccio una premessa molto, molto semplice, che è la seguente: noi siamo dei civili, il nostro equipaggio, certo, è l'equipaggio di un comandante, sono 12 persone a bordo, comandante, direttore di macchina e gli altri componenti dell'equipaggio, che sono delle persone, dei civili, che non hanno nulla a che fare con i militari e che rispondono in primis per la coscienza che ha qualunque persona che opera sul mare, di salvataggio nei confronti di qualunque vita che si trovi sul mare. Ovviamente questa è un'operazione del tutto straordinaria, perché qua non si tratta di fare diciamo quello che prevedono anche le convenzioni, un'operazione di salvataggio normale, cioè che trovare dei naufraghi a mare per prestare assistenza e portarli nei porti più vicini. Qua si tratta di avere dei flussi migratori che sono è una situazione epocale che noi stiamo ma questo certamente. Tanto però le chiederei questo. Diventa complicato. Sì, le chiederei questo, ma è successo in che acque? Cioè internazionali? Eravate in territorio? Guardi, allora lì il ragionamento è il seguente. Le acque territoriali si fermano a 12 miglia dalle coste. Appunto. Le piattaforme petrolifere di estrazione in mare sono a circa 40-50 miglia dalle coste libiche, però in realtà siccome poi la piattaforma nel momento in cui viene installata poggia sul fondo del mare, automaticamente il fondo del mare è di proprietà della nazione libica però, fino alla metà. Però se sono quindi arrivati, di fatto se... questa piattaforma è come se creasse ulteriori acque cioè territorio libico. Però sì, diciamo di fatto sono acque internazionali. Sì, perché è avvenuto, non è che hanno attaccato la piattaforma, no? Sono arrivati sull'asso 21, vicino all'asso 21, quindi era in mare, per cui era in acque internazionali, sì, ecco, questo si è verificato. E voi avete ovviamente allertato la Noi allora le operazioni, guardi, per essere precisi, le operazioni si svolgono in questa maniera. Noi riceviamo una telefonata dalla come tutti gli altri mercantili che ovviamente prestano soccorso, dalla centrale operativa della Guardia Costiera Italiana, della Capitaneria di Porto che si trova a Roma, e ci segnalano la presenza di imbarcazioni in difficoltà e quindi chiedono, siccome ogni nostra nave manda un segnale che viene recepito dalla centrale operativa, loro sanno perfettamente dove ci troviamo e quindi chiaramente chiamano le navi che si trovano più vicine. Certo, però la domanda finale è questa, è chiaro che non dovrebbe rispondere lei, ma la Marina, perché la Marina è intervenuta dopo allertata, non ha fermato, non ha inseguito, non era possibile fermare queste persone? Io purtroppo, voglio dire, non sono assolutamente in grado di poterle dare una risposta. Ripeto, io diciamo, quello che noi facciamo è salvare i migranti. Sì, certo. Dire, per tutto il resto, non è salvare i migranti, noi rispondiamo per il salvataggio della vita umana in mare. Teoricamente, guardi, noi voglio dire, non li dovremmo salvare perché potrebbe sembrare una cosa veramente terribile da dire, ma in realtà io come cittadino italiano ritengo che questa situazione, questo flusso migratorio che si sta generando non può essere risolto attraverso l'utilizzo di imbarcazioni civili. Noi abbiamo 12 persone a bordo e immagini cosa significa gestire 250. Ma certo, ma no, ma questa in cui è la ci classica... sono malati, in cui ci sono, non abbiamo ovviamente un medico. È la classica situazione di emergenza perenne che lei dice giustamente non deve essere risolta dall'intervento di imbarcazioni private. Io la ringrazio molto, Mario Mattioli, per essere stato con noi. Ricordo, presidente di Augusta Offshore, armatore del rimorchiatore Asso 21, che è rimasto implicato in questa vicenda raccontata anche oggi da tutti i giornali, cioè l'assalto, gli spari, la fuga, questo per esempio è il titolo del Corriere della Sera. Andiamo al traffico. Lavoratori! Eccoli i nostri lavoratori, quelli che ci scrivono per la passione che hanno per il proprio lavoro a 24 mattino e radio24.it, e noi raccontiamo un lavoro al giorno. Uno di voi oggi saluto Massimo, buongiorno Massimo. Ciao Alessandro, buongiorno. Massimo fa l'agronomo, ci ha scritto una mail bellissima, come disse una volta una signora, la signora rispose: ah, allora si occupa di agrumi? Purtroppo non è stata l'unica a confondere un po' le cose. No, fa un lavoro bellissimo, un lavoro bellissimo, a contatto con le piante, ha detto, guardate, ha usato questa espressione, faccio per le piante quello che i medici fanno per le persone, cioè Massimo? Cioè cerco di capire le esigenze che hanno le piante, diverse piante che hanno i miei clienti in coltivazione, le esigenze nutritive in particolar modo, ma anche le esigenze di difesa da parte delle malattie che ci sono, e quindi si cerca di prevenire innanzitutto ovviamente l'attacco fitosanitario, e nel caso in cui non si riesca a prevenirlo, sicura prima in maniera diciamo biologica, non convenzionale, e se proprio non ce la si fa si usano anche prodotti chimici ovviamente, ma, cercando di rispettare il dosaggio. Massimo, c'hai scritto che lavori ovviamente in Italia, molto sull'Italia, ma anche Grecia, Malta, Croazia, non più in Ucraina per la situazione, immagino, cioè anche all'estero, cioè ti chiamano anche all'estero, sì. È il passaparola che è la cosa che funziona di più, al di là delle varie pubblicità che uno si può fare, ma sono i clienti stessi che, avendo contatti anche con fornitori o con colleghi all'estero, ti chiedo. Ma per esempio, da Malta ti ha chiamato per dire c'è una coltivazione di fragole, e stanno cominciando ora con i pomodori. Ho due clienti lì alla Valletta. Sì. Fantastico, non so, in Grecia a dire. In Grecia, nella zona di Volos, ci sono quattro produttori di gardenia, in questo caso, in vaso. È una delle più grandi aziende produttrici di gardenie al mondo. Che vogliono sapere come produrre meglio, come difendersi. Che vogliono sapere come difendersi, come produrre, come irrigare, come migliorare la qualità o la produttività dei loro prodotti. E fra tutte quante le coltivazioni che ci sono in questo momento, diciamo, quelle che hanno maggiore bisogno di attenzione sono ovviamente gli ortaggi, sia per un discorso, diciamo, di, come dicono gli inglesi, di food safety e food security, sia per migliorare la qualità intrinseca del prodotto, la qualità organolettica del prodotto. Cioè, un lavoro appassionante. Di una tua mail, fatti la pubblicità che meriti, così passaparola, anche noi qua da Radio 24 ti diamo un po' di lavoro. Allora, io ho due siti. Uno che è il sito che riguarda il fuorisuolo, che è fuorisuolo.it, perché mi occupo specificatamente di coltivazioni in fuorisuolo, cioè svincolate dal terreno, e l'altro è verdeagricoltura.it, che è il sito dello studio in cui ci occupiamo anche di altre cose, non soltanto di nutrizione e difesa, facciamo anche dell'altro. Allora, fuorisuolo.it o verdeagricoltura.it, poi come al solito la nostra mail è il modo più comodo, scriveteci a 24 mattino e radio24.it. ieri ci hanno scritto tantissimi per sapere la guida di canyoning, com'era il sito, quindi voi scrivete a noi e noi diamo l'indirizzo di Massimo, che fa l'agronomo ma non si occupa di agrumi, cioè magari anche di piante di agrumi, non lo so. Va bene Massimo, sei stato simpaticissimo. E allora, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli e il nostro Peter Bescapè, alpino in regia, vi diamo appuntamento a domani.